non solo in mezzo al niente. Quanto sta che qui m'hanno concepito, partorito, poi lasciato veramente, e finora sono stato qui beate. Con gli aviani e le sirene ho convissuto, fianco a fianco alle balene, alle facere, sono stato, devo dire, sono nato su uno scoglio. Arrivato a terra ferma, devo dire, non è stato niente male, veramente come niente. Ho conosciuto tanta gente, gente. Tutti quanti mi volevano mostrare com'è bello divertirsi veramente, allegramente. Andiamo tutti a ballare e poi cantare e poi ci buchiamo da festa. E poi ad aspettare l'alba in spiaggia, e poi a fare colazione con i cornetti e il cappellate. Ma ecco, in quel momento io capii la mia natura, tutto a un tratto non avevo più di fare voglia alcuna, preferivo rimanere lì seduto sul muretto, su uno scoglio sono nato, è un filo logico perfetto, io sono scoglionato. Avevo fatto uno sbaglio di andare a pazziare, non ne voglio sapere. Ho preso un abbaglio, sono nato su uno scoglio. Così che non capisco le persone che per potersi divertire veramente non gli basta star seduti a fare niente. Sarà che sono cresciuto su uno scoglio, ma con niente io medaglio. Per di più senza stancarmi minimamente. Allora zitto zitto cacchio cacchio, vuoi vedere che stavo meglio veramente lì da solo sul mio scoglio a fare niente. Ma chi me lo fa fare di restare in questo luogo ad affannarmi inutilmente per trovare qualche cosa?